E buonasera a tutti, questo era solo l'inizio di un brano che ascolteremo fra pochissimo, ma prima di dare inizio a questa trasmissione, dopo le vacanze dei colori dell'anima, volevo salutare subito, le mie ospiti in studio. Comincerei con Fiorella. Ciao, buonasera a tutti e ben ritrovati. Alla voce inconfondibile di Fiorella, direi, che ormai ci accompagna, insomma, abbastanza regolarmente, va in Sì, radio, non tutte le volte. io vi ringrazio perché mi accompagnate molto volentieri anche voi. Grazie. E passiamo invece a Licia. Ciao a tutti. Licia che è di passaggio qui a Bruxelles, ma comunque, insomma, scopriremo un po' di lei nel corso della trasmissione di questa sera. E dunque, la trasmissione di questa sera che come si intitola? Ce lo vuoi dire tu, Fiorella? Passione. Passione. Allora, passione o basta così, solo passione? Ma sì, perché la parola passione dipende da come la usiamo. Dunque, se noi facciamo un po' di Wikipedia, come si dice, no? Che cos'è la Sì. passione? Dunque, iniziamo dal termine pathos, dal greco, che non è un termine molto, come dire, al limite positivo, bello, come lo possiamo vedere, la passione scintillante. No, pathos vuol dire sofferenza, perché la passione è un qualche cosa, secondo gli antichi, che noi subivamo ed era in netta opposizione all'attività. Dunque, Aristotele pensa che diceva che la passione era una sofferenza dell'animo che poteva portare una sofferenza anche del corpo e l'unica maniera per poter arginare questo pathos, questa passione, era metterci la ragione. Dunque, ma si sa che ragione e passione molte volte non vanno d'accordo. Io avevo pensato, perché la cosa quando mi ha detto di questo appuntamento sulla passione, la faccenda mi ha appassionato moltissimo. Dunque, ho iniziato a cercare un pochettino. E cercando, ho cercato fra gli amici, fra i colleghi, fra le persone, però io penso che possiamo, non lo so, ditemi voi, possiamo entrare forse meglio nell'argomento, vedendo quelle passioni che al limite hanno cambiato la storia, perché sono delle grandi passioni, no? Che con la loro, come dire, con la loro grandezza sono riusciti a cambiare la storia di tutti quanti, oppure la storia soltanto di alcune persone abbastanza importanti. Giusto? Allora, io inizierei con Elena di Troia, che con la passione del suo amante ha fatto scaturire una guerra di Troia, giusto 10 anni, con tutto quello che ne è portato. Noi abbiamo dovuto studiare l'Odissea, eccetera, Abbiamo eccetera. dovuto studiare, come piace Giusto, questa perché se cosa. non ci fosse stato questo ratto, questa grande passione. Dunque, e da lì è nata anche la passione di Ulisse, perché Ulisse, come tutti gli altri, preso dalla passione di andare a aiutare Troia e tutto quanto, perché sai, c'è anche questa, è una componente molto maschile la passione, almeno all'epoca, perché la passione poteva essere vista anche come una forza che ti spingeva e ti faceva diventare eroi. Dunque, questi eroi erano tutti quelli che erano molto presi da questa passione, giusto? Ulisse, appassionato di se stesso, se ne andò in giro. Per 30 anni, quanti anni rimase fuori da casa, se non sbaglio? 20 anni, tanto lui aveva una Penelope accanto, appassionata di Ulisse, che è rimasta lì a tessere la tela, no? Diciamo, questo, la prima forse passione che ha cambiato la storia. Poi, vabbè, poi diciamo in ordine di tempo, o prima, c'è stata la passione di Gesù Cristo, perché anche noi sappiamo la passione di Gesù Cristo cioè, la passione bisogna dire che è un qualche cosa che ti fa fare ciò che la ragione ti dovrebbe dire: stai fermo, non farla, no? Un amare una tua idea, un qualche cosa che ti porta anche al rischio della tua vita, giusto? Gesù Cristo è stato colui che, per passione verso l'umano, ha sacrificato se stesso. Ma questo dovrebbe essere una puntata a parte. Poi ci fu Enrico VIII e Anna Bolena, cioè lui proprio fece lo scisma della Chiesa anglicana, giusto? Perché lui per volersi sposare per questa passione insana verso Anna Bolena, litigò col Papa, scisma della Chiesa anglicana, e così abbiamo anglicani e cattolici, giusto? Ecco, lui la cambiò la storia, o sbaglio? Ecco. Poi se andiamo un po' più verso i nostri giorni, io vi vedrei nella passione di Claretta Petacci, che sposò in pieno, Cioè, lei fu appassionata di Mussolini, sposò in pieno non solamente l'uomo, ma anche il suo modo di essere. Dunque, lei fu uccisa per amore, per la sua passione, giusto? Non venne meno al suo amore. E poi l'ultima, tra l'altro, non so se voi giorni fa avete visto in televisione il film La Grande Donna, su Aung San Suu Kyi, la donna birmana. Non so se l'hai vista tu, Liscia, molto bello. Lei, la sua passione per la patria, tanto da rimanere prigioniera in casa, non poter vedere i figli, non poter neanche andare a vedere al capezzale il marito morente. Penso che queste grandi passioni, questo è ciò che forse a noi non ci tocca, semplici mortali, noi abbiamo delle passioncelle, giusto? E allora, come ti dicevo l'altra volta, mi sono divertita a chiedere a tutti i miei amici di che passioni erano. Sono stati un po' restii, perché chi ha paura di mettersi in gioco perché la passione porta via e tutto quanto. C'è un mio amico che io spero che sia all'ascolto, se c'è batti un colpo, se no ti saluto lo stesso, ciao Angelo. Mi ha detto, dice, la passione per me è quella forza che mi spinge a fare tutto ciò che la ragione mi direbbe no. In fin dei conti è questa la passione. È un qualche cosa che tu fai, che ti spinge a fare qualcosa, ma se tu vieni guardato da fuori, gli amici ti dicono, ma chi te lo fa fare? Tutto ciò che risponde a chi te lo fa fare. Sì, perché ci rimetti, come per esempio il volontariato, tu sai benissimo, io sono qui perché tu mi hai conosciuto la prima volta, perché faccio parte della VAI, della cosa del volontariato. È bello il volontariato, ma passi del tempo, metti la tua immagine, la tua persona, le tue idee, e anche quello molte persone ti dicono, a chi te lo fa fare? Può essere una passione intesa, sì, seguo le mie idee, io sono appassionata delle mie idee, dunque le seguo, ecco. Io ho parlato troppo adesso. Allora, questa era solo tanto l'introduzione, pensate. Pensa un po'. Quindi, insomma, di cose da dire la nostra Fiorella ne ha, ma chiederemo anche a Licia quali sono le sue passioni, visto che appunto è venuta qui in radio con noi per farci compagnia. Però appunto propongo adesso una piccola interruzione musicale con un brano di un cantante abruzzese che si chiama Luigi Friotto, e il titolo del brano è Silenzi da un temporale. Fra pochissimo, mi raccomando, rimanete sintonizzati con Radio Alma e con I Colori dell'Anima. Allora, e si sono fatte intanto le 21:14 su Radio Alma con la trasmissione I Colori dell'Anima in compagnia di Rosanna, Fiorella e Licia, la mia amica che è qui di passaggio a Bruxelles. Allora Licia, come hai visto stiamo parlando di passione o passioni. A te la parola passione cosa fa venire in mente? La parola passione mi fa venire in mente il giusto innamoramento che bisognerebbe avere per tutte le cose che si fanno. Cioè, io credo che la passione sia un po' il senso vero della vita. Senza passione non c'è, come dire, piacere delle cose che si fanno. Quindi la passione è una qualcosa, io la vedo molto in positivo. È vero che è sofferenza, come diceva Fiorella, perché l'innamoramento, l'essere innamorato dà anche sofferenza, che essere appassionati significa cercare di dare tutto e quindi di affrontare qualsiasi cosa pur di perseguire nella propria passione. Però io la vedo come un aspetto estremamente positivo, da friccicore alle cose, da senso alle cose. E anche quello che ci viene trasmesso di più delle persone che incontriamo, quello che ci resta di più delle persone che incontriamo. Mi è sempre piaciuto prendere dalle persone le cose di cui erano appassionati, e facilmente mi sono appassionata di cose di cui erano appassionati i miei amici, quindi è un bel modo di trasmettere le cose importanti. Insomma, la passione è contagiosa. Sì, può molto, esserlo, molto. Può esserlo. Fiorella, per te è contagiosa? Ti sei fatta contagiare tu? Io mi sono fatta contagiare anche da me stessa, sì, moltissimo. Io sono autocontagiosa, ecco, sono un portatore sanissimo. Sì, mi sono fatta contagiare, più che dalle persone forse ti fai contagiare anche dalle situazioni, no? Prima stavamo parlando mi dicevi se la passione è negativa. No, per esempio, riprendendo, perché poi te l'ho detto, sono andata un pochettino a spulciare qualche cosa, no? Goethe diceva: le passioni sono difetti o virtù, ma potenziati, no? Dunque, noi adesso stiamo parlando di passioni che possono essere positive, giusto? Ma possono essere anche negative. A me la mente va, perché di solito quando parliamo di passioni sono sempre passioni amorose, no? La passione per l'altro, la ricerca di essere amato e tutto quanto. Però noi sappiamo anche, qui una nota un po' dolorosa, sappiamo anche che queste passioni, quando possono sfociare in qualche cosa di estremamente negativo, no? Come anche tutte le femminicidi a cui stiamo assistendo. Dunque, sono passioni incontrollate. Lì veramente, come dicevi tu, la passione è negativa. Lì non c'è ragione e si va al di là della comprensione umana, si va al distruggimento di se stessi e soprattutto degli altri. Dunque, chiudiamo questa parentesi negativa, che però sì, diciamo che oggigiorno purtroppo assistiamo anche a questi deragliamenti di passione, giusto? Però la passione per il proprio lavoro, la passione per i propri ideali, ecco, noi diciamo prima che la passione può essere anche il rispettare i propri ideali, la propria scala valori e dunque andare avanti. Tu diceti che passione sei? Perché questa era la domanda che ci facevamo, giusto? Di che passioni ho? Beh, sì, la mia prima passione è il lavoro. L'hai definito immediatamente tu, sì. Io faccio un lavoro del quale sono innamorata e quindi appassionata, visto che è appunto è un rapporto di amore con una persona, ma anche con il mondo che si vive. Io sono un ricercatore, faccio ricerca in medicina, e ho seguito contro tutte le ragioni questo tipo di lavoro, rinunciando a fare il medico, che era sicuramente un lavoro più tranquillo e più remunerativo, proprio perché inseguivo un sogno, un'idea, un innamoramento che è tuttora presente dopo 25 anni che faccio questo tipo di lavoro. Ecco perché, e penso che sia fondamentale, perché nelle scelte che uno fa, essere guidati dalla passione, un po' dalla follia, ecco, la passione è anche un po' follia, contro la ragione, ma non nel senso negativo, ma col superamento della ragione, qualcosa che dà una grande intensità, nella quale ci si butta con una grande intensità senza pensare alle conseguenze, o senza pensare necessariamente ai vantaggi o agli svantaggi che si possono venire. Seguo questa cosa perché mi prende moltissimo, e quindi non faccio delle considerazioni utilitaristiche, non faccio un bilancio di quello che faccio. Io sono convinta che tutto ciò che viene fatto con passione alla fine dà una risultante positiva, e tutto ciò che invece viene fatto per scelte di convenienza o anche reprimendo quello che è proprio l'istinto di seguire il proprio sentimento, il proprio innamoramento, difficilmente poi dà esito a delle grandi storie. E se guardiamo al passato, come tu ci hai fatto vedere, vediamo che in fondo tutta la storia, nel bene e nel male, ma io penso soprattutto nel bene, è mossa dalle grandi passioni. Quando non ci sono passioni si hanno dei periodi di stallo, che diciamo non producono grandi artisti, non producono grandi movimenti, quindi sicuramente è questo. Quindi, diciamo, ritornando a me, sicuramente il lavoro è la mia prima passione, ma insomma io ho anche passioni meno interessanti, come per esempio la passione per lo sport e per una squadra di calcio in particolare, no? Al Napoli. Ecco, questo rasenta proprio l'irrazionale, ecco, la passione per una squadra di calcio è qualcosa a cui non si, ancora una volta, non c'ha ragione, quindi di fronte a qualsiasi evidenza si nega e si ha sempre quest'idea che la tua squadra deve essere la prima, e questo ti porta a fare delle cose, io non perdo una partita a costo di imbrigare i miei weekend in maniera difficilissima, cercando, che so, di portarmi dietro l'iPad per poter seguire la partita in qualsiasi posto o sto, ed è anche questo un sentimento di innamoramento. Cioè, sono innamorata della mia squadra, sono innamorata della mia città, sono innamorata della mia squadra, della squadra della mia città, e quindi la seguo in qualsiasi momento, e anche quando le evidenze più razionali dicono che la squadra non va, che e le scelte sono sbagliate, per me non c'è verso di tifare un'altra però, squadra. Però scusate, vedi, fra le cose che dici, cioè esce subito una, come due tipi di passione, no? La prima passione, che è bellissima, no? Perché sembra quasi, io dico, sono i costruttori di sogni, no? Con le persone che ricercano, che vanno verso, ma è una passione molto molto, come dire, non egoista, è una passione veramente altruista, perché tu fai cioè andando avanti con la tua passione, però tu ti dedichi a qualcosa che sarà utile a tutti quanti, no? Dunque c'è quella passione che fa bene a tutti, no? Quella passione che fa migliorare tutti quanti, tu nel tuo piccolo, ma non è che sei stato, cioè non è che perché non sei stato Enrico VII, però anche tu nel tuo piccolo contribuisce a far sì che ci sia sempre movimento, quel caos che si dicevano gli antichi, no? Perché il caos produce movimento e produce cose nuove. Però c'è un altro tipo di passione che è molto più egoistica, giusto? Che è appunto come il calcio, tipo quasi quello dei maschietti per il calcetto, giovedì sera a calcetto non stanno a sentire nessuno e se ne vanno. Per te, dunque, ci fai vedere due tipi di passioni, no? Una più, come dire, più altruista, più universale, e l'altra proprio terra che tu dici non me fa. E sono quelle più belle di passioni, però, perché, proprio perché sono irrazionali, ma non, ma sì, anche perché sono, ognuno ha le sue passioncelle, no? Ecco, sono di corta durata, di lunga durata, però quello che è bello è scoprire questo lato passionale che tutti quanti. Te l'ho detto, io ho fatto una piccola indagine fra amici, parenti, e io, la moglie di mio cugino, una persona serissima, e per la prima volta mi ha detto, cioè, la mia passione è la danza africana che ho fatto per 4 anni, ci metterei sempre a ballare. Io ho detto, oddio, non avrei mai immaginato una cosa del genere, perché è una passione che è rimasta circoscritta in lei, una passione che è completamente all'opposto di ciò che io vedo continuamente, come per esempio la mia passione per i tramezzini, ecco. Una cosa a spiegare, io riesco, io vado matta per i tramezzini, mi facevo anche quando abitavo a Trieste, a Lubiana, andavo a Trieste quando ancora non c'era l'autostrada, soltanto per mangiare un tramezzino, e giravo tutti i bar. Io riesco a mangiare un tramezzino, averne uno in mano e ordinarne un terzo, questo nel giro di 5 minuti, è una cosa a cui non riesco a resistere, sono quelle passioni che smodate, completamente egoistiche, al di là della ragione, perché con tre tramezzini belli imbottiti come li fanno a Roma e ogni volta un chilo, arrivo a casa e non ceno, storie di mamma e papà, quella è una passione illogica, completamente illogica, però sono quelle che piacciono di più. Per esempio Rosanna, che sta facendo un pochettino la gnorri, eccetera, eccetera, di che passione sei? Non si può interrogare il regista. Come no? Non puoi sfuggire. Ah, sì, devi anche tu. Allora, di che passione? Vediamo. Non penso di avere una passione particolare, diciamo, che prevale. Mi sono scoperta, ma questo non lo sapevo neanche, che mi piace organizzare, che ne so, le gite. Organizzare quando c'è qualcuno che fa, che ne so, festeggia un compleanno speciale, organizzare un regalo speciale coinvolgendo altre persone. Quindi mi piace fare, diciamo, delle attività collettive in cui quindi coinvolgere altre persone e finalizzate magari a far piacere ad una o due persone. E è una cosa, per esempio, che ho scoperto casualmente, perché non è che sapevo di avere questa capacità, questa passione. E lo faccio con passione, nel senso che appunto quest'anno, per esempio, ho raccolto una serie di contributi per una mia amica che ha compiuto 70 anni, ed erano il tema del contributo era di descrivere un viaggio. Per fare questo, quindi, ho dovuto intanto contattare molti mesi prima le persone che secondo me, per amicizia o per parentela, potevano essere interessate, ma poi anche rimandare ogni volta il rappel, perché la gente si dimentica, oppure c'è altre cose da fare, quindi comunque non è la priorità, e poi magari dare delle scadenze prolungate per chi invece... E quindi, insomma, è un lavoro che richiede una grande pazienza. E qui, ecco, questa è la prima cosa che mi viene in mente e che potrei considerare una passione. E altre passioni, come per esempio lei la squadra, io i tramezzini, cioè una passione proprio terra terra, cioè ci hai messo di fronte una passione che fa del bene a tutti. No, tutto. No, io non voglio fa del bene, è una cosa simpatica nascoste. Che mi fa divertire. Sì, ma anche passioni nascoste. Ma che ne so, che mi piace fare i pedicure. Ah, lo vedi. Per esempio, ho scoperto che è una cosa che mi piace molto, che quando non ho i piedi a posto mi sento a disagio. Quindi ho la passione di avere così l'attenzione, diciamo, di avere, poi non li faccio io ovviamente, sì. Mi piace che qualcuno me li fa, okay. Ovviamente. Mi pare che ci fosse qualcuno che baciò il piede della ex moglie del numero 3 della corona di perché e poi andò tutto quanto in scandalo, anche lui era appassionato dei piedi, non ti ricordi? No, non me lo ricordo. Sì, sì, ma comunque continua. No, ho finito, questa era la cosa terra-terra, insomma, sì. Più terra dei piedi. Ah, no, vabbè, ma comunque, per esempio, ecco, e vabbè, qui però parliamo sempre di passioni che sono molto molto importanti. Che cos'è veramente la passione? Perché passione uno, sai, all'epoca si diceva passione. Cioè io mi ricordo che alcuni anni fa, quando erano di moda un pochettino i primi a parole inglesi, dicevano di che hobby sei? E io cadevo proprio nel più totale sconcerto, perché mi dicevo io non ho un hobby, no? Perché come è congeniato, no? Dunque l'hobby sarebbe un interesse, dunque possiamo scendere un pochettino passione, interesse. Qual è la differenza fra una passione e l'interesse? Beh, l'interesse mi sembra una cosa razionale, non capisco. Beh, no, perché l'interesse può essere, che ti posso dire, la passione per i libri, un interesse per i libri, qual è la differenza secondo te? Ah, l'interesse nel senso, diciamo, di curiosità, nel senso... Per noi l'interesse non c'è necessariamente la componente irrazionale, la componente di sentimento, cioè l'interesse è qualcosa che piace, di cui ci si occupa, ma non necessariamente richiede una passione. Può diventare una passione. Tu dici c'è meno coinvolgimento, giusto? C'è meno coinvolgimento, sì. E secondo te ci sono più persone che hanno interessi o più persone che hanno passioni? Ah, io penso che ci siano più persone che hanno passioni. Tu dici? Allora. È una sensazione. Allora, però, se riprendiamo il discorso della passione, la passione implica una certa sofferenza, ma anche una certa perdita di un qualche cosa, perché uno, se deve seguire una certa sua passione, naturalmente qualche cosa le deve perdere intorno, no? Tu per il tuo lavoro forse perdi come dire, la tua passione per il lavoro, perdi un po' della tua vita privata, o per andare a seguire il Napoli, non lo so che cosa perdi. Implica una visceralità, ecco, appunto. Dunque, diciamo che invece io vedo più persone con interessi che più passione, no? Perché io penso che, come mi ha scritto anche una mia amica, la passione, lei ha paura delle passioni perché ha paura di non essere, come dire, maître à bord, di non essere di non poter gestire se stesso, perché la passione normalmente tende anche a fare dei passi, a fare delle scelte, perché tu ti perda, giusto? O no? Certo. Dunque, io penso di vedere più persone con degli interessi. Un pochettino, sai, perché l'interesse, come dicevamo prima, ti mette in equilibrio, cioè non perdi niente, non ti interessi, cioè qualche cosa ti occupa, però non perdi né a destra né a sinistra, né in tempo né in soldi, e tu vai avanti, no? Purtroppo, ecco, io... non lo so, vedo questa, soprattutto questa generazione, non lo so, io vengo da una generazione che, come voi, che ha visto tantissime cose, ha visto tanti cambiamenti, che sono stati frutti anche degli interessi, delle passioni delle persone che l'hanno portato, no? Sbarco sulla Luna, e quelle, quell'altro, sono tante cose, sono state tante gettate verso il futuro, ma che sono il risultato di passioni, come dici tu, no? E adesso invece io vedo poche passioni. È poca, come dire, poco coinvolgimento in qualche cosa, non lo so, forse sbaglio, non lo so. Non lo so neanch'io, può darsi che, diciamo, superficialmente sembra così, però mi chiedo anche, mi dico anche che forse le manifestazioni sono diverse. Magari sono meno vistose di come le abbiamo vissute noi, sono più discrete, più private, potrebbe essere? No, adesso c'è internet, dunque non c'è bisogno di essere tutti quanti in piazza, ma basta mandarsi... C'è Facebook. E anche quella è una passione. Anche quella è una passione. Per esempio, io quando vedo i miei figli... Cioè, io penso che la generazione futura nascerà con un iPod incorporato nella mano, sinceramente, perché loro sono appassionati del loro... io penso... Ecco... No, volevo solo salutare Anna Maria. Ah, sì. Perché ha detto che ci sta ascoltando e ha detto come siamo serie... Ulala, siamo serie, eh? Ci manca lei allora. Ci manca lei, sì, che se ogni tanto si fa qualche risata, tra l'altro. Ciao Anna Maria, guarisci presto, eh? Sì, poteva anche telefonare, intervenire così. No, diciamo. vabbè, se no, magari non c'ha la voce bella come al solito, forse non vuole intervenire. Lei c'ha una voce stupenda. Infatti. Allora dobbiamo essere un pochettino... Allora, senti, io proporrei un altro brano musicale, una piccola interruzione. E ci ritroviamo fra pochissimi minuti, mi raccomando rimanete sempre con i colori dell'anima mentre sono le 21:33 e a dopo. Allora, questo brano un po', diciamo, sui generis, è un brano che si chiama Working Week, eseguito da un gruppo che si chiama Umbria Ensemble. Allora, stiamo parlando di passioni e in studio ci sono con me Fiorella e Licia. E insomma, Fiorella ha cominciato col farci una introduzione filosofica sul concetto di passione, poi alcuni cenni storici, poi siamo passati anche ai giorni nostri a parlare anche di persone così vicine a noi che conosciamo, riferimenti anche di noi stessi. E come vogliamo continuare? Che dici? E beh, a questo punto con l'amore. Cioè, la passione è sinonimo di amore, no? Dunque prendiamo Shakespeare, la prima frase che disse: se non ricordi che amor t'abbia mai fatto commettere la più piccola follia, allora non l'ha mai amato. Dunque, adesso signore, dunque, per amore si fanno follie, giusto? Perché l'amore senza, come dicevi anche tu, Licia, all'inizio, l'amore senza passione non esiste. Perché se non esiste quello slancio, quel voler volare, quel voler superare tutto a 4 metri, come diceva, a 4 metri d'altezza, giusto? Allora non è amore. Dunque, se non è mai amato, se non è mai avuto una passione, non è mai amato. Dunque, che cos'è che si è fatto per passione? Adesso naturalmente, signore, vi confessate, adesso in tutti i casi, se c'è almeno, c'è Anna Maria dall'altra parte, comunque se c'è qualcun altro che iniziasse a farsi la domanda: che cosa ha mai fatto per amore, giusto? Qual è la passione? Licia, a te. Questa è una domanda un po' difficile, perché uno potrebbe dire tante cose, forse la maggior parte delle cose che uno fa alla fine le ha fatte per amore. Però per me penso che la cosa che ha più pesato nella mia vita per amore è essere rimasta in Italia. Sì. Non solo essere rimasta in Italia, ma aver fatto una serie di scelte per posti e situazioni che se non fosse stato per amore io razionalmente non avrei mai scelto. E adesso le rifaresti? Sì, sì. Anche perché uno quando si sente appassionato fa queste scelte e vive, giusto? Sì. O no? Certo. Almeno hai un qualche cosa da raccontare ai tuoi nipoti e tutto quanto, agli amici. E regista, so che non si possono fare domande a chi conduce, come quello dei tram, non si disturba. Invece la domanda di il tocca. Contrario di Licia, io sono venuta a Bruxelles. Ah, il contrario. Il contrario, perché non ci volevo venire. Dunque, quindi la mia ragione diceva no, no e no. E ci sono venuta e ci sono pure rimasta. Quindi, vedi. E per le stesse motivazioni, sempre d'amore, di passione, sì. Di passione, sì. Tutti qui siamo qua per passione, in tutti i casi, per amore, infatti. Perché io pure qua non è. Ma si vede che siamo capitate 3 appassionate. Ma sì. Sì, tra l'altro, no, io devo dire che invece di passioni, di qualche cosa così per passioni, no, quando ero giovane ne ho fatte abbastanza, anche perché venivo da un ambiente un po', come dire, non tanto permissivo all'epoca. Ragazzi, non c'ho più 20 anni, ma dopo i 30, scherziamo, il doppio. E dunque, pensavo 25. C'è anche chiaro. Dunque, qualche cosa l'ho fatto. Io mi ricordo che con la persona di cui sono ancora appassionata, che tra l'altro, diciamolo, svegliamolo, è lo spettatore silenzioso, giusto? Certo, che certo. Anche lui potrebbe benissimo starsene a casa, ma per passione nella sottoscritta sta qui, sta in silenzio e ascolta. Dunque, diciamo che per questa persona, questo spettatore silenzioso, io mi ricordo che per venirla a trovare lui stava qui e disse ai miei genitori che andavo a fare, io guidavo a Roma, una scampagnata a Firenze, presi l'aereo e venni a Bruxelles, andata e ritorno. Ora, per fortuna che non c'erano i cellulari, perché sennò sai, saresti stata complottata. Dunque, dovevo dare notizie di me ai miei genitori. Loro sapevano che andavo con una mia amica, naturalmente telefonavano alla cabina pubblica cercando di non far sentire che in un luogo di lingua francese e tutto quanto, e la mia amica, guarda caso, non era mai con me, era sempre a fare spesa. Comunque, diciamo che con la mancanza dei cellulari ci siamo permessi delle passioni che forse non potremmo fare adesso, giusto? Certo. Ecco, queste sono state le nostre passioni. Va bene, quindi... E per questa passione, appunto, come hai detto, sei venuta anche tu, ci sei rimasta a Bruxelles. Sono venuta a Bruxelles, sono andata in Slovenia, sono andata in Austria, ho girato il mondo e l'ho seguito un pochettino da tutte le parti. Adesso c'è un'altra avventura a San Pietroburgo, dunque questa è la passione. Cioè uno dovrebbe dire, ma chi te lo... Ecco, diciamo quella domanda, no? Ma chi te lo fa fare? E chi me lo fa fare? Niente. Ecco, la passione forse è quello che se non fai ciò che la passione ti domanda, non potrebbe esistere un altro tipo di vita. E forse è questo, no? Dice la passione che cos'è. Uno, quando è... Io non dico posso o non voglio fare. Io sento che quando intraprendo una mia decisione o seguo certe cose, so dentro di me che non ci potrebbe essere un'altra strada. Cioè, quella è l'unica, dunque, passione o no, per me quella è l'unica strada percorribile, che, e non penso a ciò che io posso perdere o non posso perdere, e penso che questo sia un pochettino, sia per te, Licia, soprattutto, il mantenimento dei propri ideali, no? Cioè tu non ti dici, ma perché io lavoro così tanto, perché ho fatto queste scelte, tu pensi che quella sia la strada e che non c'è altra alternativa, non ti chiedi ma se o no, per te è così. Sì, sì, l'hai descritto molto bene, per me è così, è stato così, è stato, diciamo, se tornassi indietro rifarei tutte queste scelte, proprio perché è una passione che comunque si alimenta e si mantiene viva, insomma, non ha creato delusioni. E questo ha molto a che fare, come tu dicevi, con gli ideali, cioè con vivere una vita che insegue degli ideali e che per me non potrebbe essere altrimenti, insomma, la vedrei veramente povera una vita senza ideali, senza questo tipo di intensità e di passione. Però molte volte anche però la passione e il vivere gli ideali ti porta anche una solitudine, no? Ti porta anche a fare delle scelte, perché a volte fai delle scelte che ti precludono molte altre cose, cioè anche al limite anche quando uno fa una scelta politica, naturalmente non tutte le persone che sono intorno a te condividono la tua scelta, dunque ti porta a perdere alcune persone piuttosto che altre. Io me lo sono posto quando facevo determinate scelte, però mi sono anche detta che la passione, cioè tu ti alimenti della tua passione, no? Dunque tu non ti senti solo, giusto? Dunque quando uno è spinto a un ideale molto forte, non gliene importa niente se non c'è all'inizio con partecipazione di altre persone, perché ti autoalimenti della tua stessa passione, del tuo stesso, se ci credi veramente, se poi è un fuoco di paglia, vabbè, allora prima neva il sole e si scioglie. Però io penso, io invidio moltissimo quelle persone che veramente sono andate avanti con i propri ideali, con le proprie passioni, fregandone tutto il resto, però loro si sono mantenute integre, si sono fatte compagnia da sole, capito? Sono la loro passione che li ha alimentati. Sì, ma magari hanno perso delle persone e ne hanno trovate delle altre. Io... Ma io sono molto ottimista, senti, chiude una porta, si apre un portone, siamo tanti e miliardi di persone. Poi spesso le passioni sono coinvolgenti, magari sono periodi, cioè inizialmente creano un distacco, ma poi se sono vere, io penso che alla fine riescono a coinvolgere anche gli altri. Però qui siamo un pochettino troppo serie, come dice Anna Maria. Possiamo anche parlare di una passioncella che, vi ricordate, Bocca di Rosa, perché non siamo riusciti a trovare come si dice, la canzone, il brano, no? Il brano, però ve la ricordate le parole? Non vi chiedo di canticchiarla, perché sennò dovremmo essere in tre e qui andrei proprio a... Ve la ricordate le parole di Bocca di Rosa? Sì, però sicuramente tu te le ricordi meglio. No, è l'età, guarda, che inizia a farci ricca. Diciamo che ti ricordi, dice Bocca di Rosa, cioè c'è chi l'amore lo fa per noia, c'è chi lo sceglie per professione, Bocca di Rosa, nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Giusto. Anna Maria, siamo stati un po' più cool stavolta. Dunque, no, mi è dispiaciuto non poter trovare questo brano. No, infatti, purtroppo c'è il problema al computer, altrimenti l'avrei preso da YouTube. Allora, vabbè, approfittiamo di questa, diciamo, di questo riferimento musicale per fare ancora un'altra piccola pausa musicale. Ci ritroviamo fra pochi minuti, mi raccomando, rimanete con noi e a dopo. Allora, questa era Malika Ayane e noi siamo arrivati nell'ultima parte della trasmissione di oggi, dedicata al tema delle passioni, alla passione, perché poi in fondo la passione è una che uno può esprimere in tanti ambiti della sua vita. O vuoi parlare di passioni, preferisci? No, sempre riprendendo il nostro Goethe, diceva, questo io l'ho preso dal diario di Ottilie, le affinità elettive. Ci sono 57 aforismi, ne ho presi 2 o 3. Le nostre passioni sono vere fenici, come brucia la vecchia, subito dalle ceneri risorge la nuova. Comunque, queste io le chiamerei passioncelle, vanno e vengono, cioè, non entriamo in, come dire, in particolari, passioncelle così. Però ci possono essere quelle passioni che ti possono essere dettate dal momento, no? Tanto tempo fa, come si è visto, a me piace chiacchierare, piacciono le persone, piace la... E ci trasferimmo in Slovenia, e gli sloveni sono persone iper chiacchierone, gli piace stare insieme. Io non conoscevo niente della lingua, però ai primi tempi stavo in una pensione, per cui avevo sempre contatto con queste persone. E ragazzi, per passione delle persone, del prossimo, e di poter chiacchierare con loro per sapere cosa dicevano, io ho imparato lo sloveno, perché così dopo un po' potevo ciaccolare con loro. Poi mi dicevi la passione per la cucina, sì, quella è un'altra grande passione, mi piace perché mi dà la possibilità, cioè non è soltanto una passione mia, cioè un qualche cosa che rimane verso cucino, mangio e do agli altri, no, è anche per me un mezzo di entrare nelle varie culture, una passione che ho, diciamo, coltivato col tempo. E anche nei paesi stranieri, quando vado, trovo sempre una giornata, una mezza giornata per seguire un corso di cucina, conviti dal mercato, spiegazione dei prodotti particolari e cucina di un piatto tipico. Mi permette questo di entrare, sai, il mangiare è anche una delle prime necessità ed è una cosa che ci distingue anche da ogni paese differente, ogni cultura differente. E per me questo, ritornando, cioè incorporo due passioni, la passione verso il prossimo, verso le persone, mi piace incontrare le persone, mi piace chiacchierare, mi piace conoscere le culture, e unisco un'altra passione che è quella della cucina, e tutte e due si fondono molto bene perché arricchisce me e riesco ad andare di più verso le persone, e normalmente faccio mangiare meglio la mia famiglia. Vabbè, certo, certo, soprattutto con delle novità, con dei piatti diversi. Sì, prossima volta c'è sempre una cena. Certo, che aspetto. Sì. Lì c'è la passione anche della guida, adesso magari un po' meno, ma insomma si faceva Leiden Lanciano in Abruzzo, e tutta una tirata, 18 ore, notte, giorno, senza fare attenzione. Sì, mi appassionavano tutte le cose in movimento, adesso un po' meno, ma più per questione di stanchezza che e di tempo che per altro, però a iniziare dai treni, che mi piaceva guardare, cercare di capire quest'idea di questi del viaggio, come dicevi tu, no? Di partire senza avere un orizzonte chiaro, e alle moto e poi alla macchina. Per me viaggiare, prendere la macchina e andare senza meta fino a dove è la libertà. Ti porta, è la libertà, quindi facevo queste follie tipo appunto fare 1500 chilometri magari senza fermarmi o facendo una sosta solo per il pieno, solo una tappa. Cosa che solo per una tappa, sì, per il pieno. Adesso non lo faccio più perché mi addormento e quindi rischio la stanchezza. Però mi piacerebbe sempre, insomma, se posso guidare cerco di farlo. È una cosa che mi... Il fiato del viaggio, cioè a parte tu dici questo movimento. Sono le due cose, mi piace guidare proprio come, come guida. Sì. Mi piacciono le macchine, mi piace la velocità e mi piace l'idea che la guida è finalizzata al viaggio, alla scoperta, quindi si fondono insieme le due cose. Io sono appassionata di dolci, ecco, prima ho dimenticato di dirlo. Tutti i dolci mi piacciono, tutti. Capito l'antifona. Sì, capito. Diciamo che le nostre due passioni si possono fondere, giusto? Si possono coniugare. Io cucino il dolce e lei le mangi. E lei le porta. Infatti, le giro. Va bene, ho capito. Adesso sì, però sì. Se c'è qualcuno in ascolto, di che passione sei, abbiamo... Io spero tanto che riusciamo, facciamo le Marzullo della nottata, giusto? Beh sì, insomma. Sì, qui sì. Non è questa, lo sappiamo benissimo che non abbiamo molti ascoltatori perché non è proprio l'ora in cui gli italiani ascoltano la radio. Questo sì. Probabilmente... succede di più durante il giorno, quando ero a Radio Sì, il sabato pomeriggio, che la gente in macchina, magari tra un supermercato e un negozio, accende la radio e quindi si sintonizza sulla radio. Okay. Il lunedì sera non è proprio la cosa più facile, però insomma a noi piace sapere che anche se i nostri ascoltatori sono pochi, insomma è bello che ci sia qualcuno dall'altra parte. Allora, siamo veramente arrivati alla fine, quindi i colori dell'anima che riprendono oggi alla grande, dovevano riprendere lunedì, ma le ragazze, Cristina era malata, quindi la trasmissione purtroppo è saltata, però appunto da oggi quindi riprendono regolarmente, quindi dopo le vacanze estive, ogni lunedì dalle 21 alle 22, i colori dell'anima. Lunedì prossimo ci saranno Leandro, Tiziana e Rossella, quindi saranno con voi appunto dalle 21 alle 22, mi raccomando ascoltate anche loro, e noi invece ci ritroviamo più o meno tra un mesetto qui con Rosanna e Anna Maria, eventualmente anche Fiorella ovviamente se vuole, tu vuoi sempre, benissimo, e invece con Alice magari per un prossimo viaggio a Bruxelles senz'altro, speriamo presto infatti, grazie Fiorella e buonasera, grazie a voi e grazie Alice, grazie a voi e ciao a tutti, buonasera buonasera, buonasera, ciao ciao.